praticamente stiamo preparando una colonna mobile con 3-4 mezzi, con botticelle da 1000 litri, per portare perlomeno un primo soccorso a Monterosso con acqua potabile. Ci fermeremo probabilmente nella strada che conduce al Borgo Vecchio, perché la strada che conduce nella parte nuova, un pezzo sopra l'Istituto Padre Semeria, dicono che è crollata. Praticamente il fiume di fango ha raggiunto un'altezza quasi di 3 metri, perché è arrivato praticamente sotto i poggioli delle case dei primi piani.